infatti no, che non c'è più niente. Non c'è più niente. Ma per un secondo. Ehi, asso ginocchi. Questa com'è nata lì, va bene? Eia, andave. Sistemato questo PTT, ogni tanto si blocca. Ola, ola. Ma cosa va via? Stava toccando contro la carcassa, adesso l'ho risolto, dai. Ok. Ma io gli ho passato una bella passata di quelle disossidante. E va a premere come ti rondocco, ficcia. Adesso gioco bene, dai. Ho visto che non si blocca più. Perché secondo l'uomo lo schiaccio rimane portante fissa, capito? Se tu lo mandi a destra, ti segna la portante fissa. Eh sì che ce l'ha quello lì, è così come il mio non è così lo stesso. È prezioso lo studio, visto. Questo mi sa che non lo vado né più. E che ne so, ma andrà bene meglio, dai. No problem. Cazzo, oggi non è entrato né Giulio né Gianni. Tutti abuibudati sono. E vuol dire non ne hanno voglia di entrarci. E magari Gianni è drumito. E magari Giulio è giù, perché per parlare deve salire su dove c'ha l'apparato, capito? Cappa cappa. Infatti non ho sentito proprio a nessuno, cioè, ho acceso da poco io, perché ero coricato anche io. Mi sono bucato anche il tracco, mi sono vicino quasi alla una, a gatto da che si fidare, mamma mia. Dalle 10 che c'ero. No, io ero sul 20, te l'ho detto, stavo provando a regolare se c'erano stazionarie, poi ti ho sentito e mi sono trattenuto, tutto lì. Andrà bene meda. Capite una cosa, aumenta così o colà, ande muove così dovrebbe andare meglio, dai, 1, 2, 3, 4. Eia, andrà bene meda. Beh, speriamo che non si torni a blocca, se no la finestra è aperta qua, lo posso curare. Quando non le usi le cose si rovinano, Natali, capito? E infatti questo lo stesso non lo stavo usando, era dentro una cassetta, era tu canta, chi l'ha dovuto cavare tutto, si erano bitturenti, no? Cazzo. Adesso tocca aspettare domani a finire il bagno, che infatti di domenica sono andato a prendere una cosa che mi serviva lì da Bricomen, l'ha già ciappata e adesso ho già asciugato, quindi domani si fa ed è tutto finito, non mi pare vero. Ero anche noi che cominciamo a pulire. Eh beh, devi continuare a pulire lì, così. E piano piano già si fanno le cose, dai, non è un problema. E già lo so, i nomi è stato un problema che bisognava fare un muro a noi, a chi non fa via, no? C'è questo gatto com'è. Oi, oi, che ci vuoi fare? Poi sono i viri nuovi argontatori, da argontatori la giovate andare a Rugoso, a un differenziale nuovo, me l'ho piazzato bene. Sentimi, ti sarei un vero differenziale, me ne farà di ogni abbezzo di muro. Se si può buone, sì. Allora, quel cuoco Germane di Lucca è entrato. Ciao Luca, buonasera. Ma tu sai? Che me che è? Ma così dico che... Che me... Che me vorrei... Che è? Andiamo, dove andiamo, un vizio Luca? Che è io? Sì, che cocco, ma ne mi... Ti ho fra questo Natalino, boh. Una scena è su Natalino, Lu. Andiamo, dove andiamo? E ti diero, che te... Meno male che a me mi ascolta, Luca. Sì, Radio 1, segnale non ne hai. E infatti, perché ho messo quell'antennino piccolo. È vero, sì. Casino, cazzo, ma abbiamo messo... vabbè. Io non passa un po'. Insomma, pago l'affitto tramite... Pago, così si chiama, vabbè. Non c'è la bolletta di... Ho pagato fino a giugno. E ci mancano, vedete, 3 mesi, giugno, luglio, agosto, settembre. Non è arrivata ancora, non hanno caricato la bolletta. Sarà qualche ritardo che hanno. Se vedi l'antenna mia, lui, io ho messo la bandiera nera col teschio sopra. È vero. È vero, oui. Vabbè, di quella zona lì ci passo, ma... E ci passo, ti posso dire, il sabato, perché vado a prendere la mia compagna lì, dal mare. Questa sua amica mi aspetta lì. Però non è che si ferma da questo vettoriano, ma da questo vicolo. Ma è sì, da questa trinità non si vede. Pure fare in via Sorso la vedi, da via Sorso si vede. Da vicino a Rusemaforo, da prima di Rusemaforo si vede l'antenna mia. È vero. È vero, sì. Che fa? Di via di così, mi sa che la vecchiaia, chissà mi. No, la cosa vecchiaia, voi siamo questi 40 anni, qui ci sono, ok? Ok. Come dicete, mal di schiena è l'onfio, Ancora ci ha detto bene, cioè il telefono, sì, capo. Spera ti arriva da prendermi una cicca, dai. Capo che beh. Beh, pure da bloccarsi, che sta merda. A chi tu lo mandi verso destra? Chi ci blocca? Ah va, ti ricordo da Rubacone, ti ricordo. No, non Rubozzi, se ci arrivo io prima di rampallo. Ani buoni chi si intende meglio? No, si intendi, no. Dai Johnny, va via, ti baci dalla Crabatti. Fai forza, ma adesso non vinti in via, chi tu? Beh, era solto. No, si intendi, no. Vai a ciarrare vacconi. Torra. Intanto si blocca, mi frega, Perché c'ha l'istinto di portarlo verso destra. E infatti pagisco. E tu dici, non si intendi. Coppa, non si intendi. Ma giudizio che non si intendi. Ora giudizio, se non funziona, va, il biglietto ricordo a terra. Vedrai, funziona. E le dico, non si intendi? Coppa, non si intendi. Cazzo, so che andato, cazzo, in presa e furia, cazzo, ma ho fatto le fotografie, so che andato a autenticare la fotografia, e da poi non vi puria autenticare, ti immaginesi? E giusto che dovuto andare i punti, a canne serrato, tutti i... come ti cazzo si chiama, le circoscrizioni. Solo quella dei punti era aperta e me l'ho fatto autenticare lì la foto. E dopo non ci voleva neanche autenticata. A che la Salima ne ha aggredito in questura, ragazzi. Vera la vita pensa pura. E io non me ne ho avvisato che la ne vende la vita banchini. So che andato direttamente allo sportello per chiedere informazioni a vedere cosa ci vuole. Da internet me le ho dovute scaricare. Ma la sapete, ma cosa? Andate a fanculo e me ne sono andato. E infatti me l'ho dovuto fare tutto da internet, ecco perché non sapevo che non volevano autenticate le foto. Non mi hanno fatto domandare in cui immagino, ma ti immagini? Lei deve fare la fila come gli altri. Allora c'è una cosa, va a fanculo, vada. E me ne sono andato. Ma proprio così da giudizio. Come di gente c'era? Cazzo, ti busardi in chi via? A due viri. Aspetta un attimo. Chi è? Sono io, la carezza, sto regolando il microfono. Va bene così. Era minimo. Ho capito. Andà bene meda. Usanca. Sto aspettando. E farà due Giorgio stamattina, Gaia, l'amica di Concetta. Cazzo, ma con il Presidente della Repubblica ha usi di cose, quando giocare lui da rispidare. Bubu. Hai visto. E allora è per loro che me l'hanno fatta subito la cosa. Se no, vai a prenotarti a Rugupi, ma vieni visitato domani. Poi questa mi ha spiegato tutto proprio. Cazzo, bravissima questa chirurga qua. Ne ha bisogno di dottori bravi. E te che mi bisogno? Ma solo Maribassone che conosci, mi dice no, nulla. Non venuto da di là. E in quest'ora mi ha fatto la matrice cosa. Cazzo. Sì, se conosci è un conto, se non conosci ti tratta una pece in faccia. Cazzo, me ne sono dovuto andare l'altro giorno. Ma ha giocato bene, mi aveva detto il gatto, quando sono andato a consegnare tutto non c'era nessuno, uno solo veniva prima di me. Se lo conoscete è un casino. Infatti adesso sarà un problema a ritirarlo, perché questi si pigliano 90 giorni di tempo, andando da 3 mesi. Certo. Cazzo. Cugino ha detto non può fare nulla, mi pare strano, ma sai cosa mi era andato in una ghida? Cosa vuoi ti dica io? Perché l'ho telefonato e gliel'ho detto che ho versato tutto, me l'ha pigliato pure un bocciu d'arma, tutto, quindi manca a tirare posso andare, ma cosa me ne ha pigliato e non è ancora scaduto perché mi scade a novembre. No, perché l'hai fatta adesso, scusa. Ma chi lo deve fare prima che cadia? Se no vengono lì e ti sequestrano tutto, non hai compreso? Non li puoi dire senza boccio d'arma. Perché loro, se tu lo vuoi tenere senza porto d'arma, devi dargli tutti i fogli che ci vogliono per avere il porto d'armi. Hai capito? Ma ti conviene a fare una cosa del genere? Così cazzo non puoi andare a mancare a tirare, che puoi tu dai, ma non hai! Le puoi solo detenere così, dandogli tutti i fogli. Invece c'è il porto d'arma, fai il cavolo che vuoi. E mi ho rinnovato il porto d'arma, infatti. Infatti, conviene rinnovarlo. Lo credo, cavolo. Allora, secondo me sta andando e fammi due dini ogni addanto. Vi lo dica Gianfranco. E rinnovo la tessera e via. Adesso vediamo se riesco a ritirarlo prima, ragazzi. Se no vivono 3 mesi, vivono. Si pigliano 3 mesi di dentro. Cosa deve venire va in questi 3 mesi quando vi raggiungiamo questo d'arma? Che indagini deve venire va? Cazzo! Non conosce nessuno su giù di lì. Già conosco una persona in alto, ma non mi va di chiedere i favori del genere, che cazzo. Già lo sai a chi conosco lì. Tu non conosci a nessuno. Sì. Hanno domandato a chi sa persona chi sai tu. Me. Non lo sai come ti so. Ma già rifiutato un favore un giorno e non gli voglio chiedere più nulla a quella persona, anche se lo conosco. Ah, io ho capito. Allora, cazzo, non li voglio domandare nulla. Se conoscevi gente tua, ne conosci lì, che possa parlare con questi qua, di quell'ufficio. Sì, già lo conosco dentro, non so se c'è sempre. Bisogna fumarsi. Devo andare a cercarlo, la mattina lo posso trovare, se c'è. Ma sei andato, ma a mangiare quando venimmo di fare commissione, a vedere se c'è. Mi lo presenti, e così vi lo dico se può fare che cosa. Tra i dedi non si nega pane luce, non ha compreso. Oh, conosco anche uno che avevo preso i canarini da lui, però normalmente come si chiama va in Aravona. Vabbè, se vieni su di dove dovrebbe esserci lui, perché lui è nell'ufficio lì. Oh. E allora? Perché non dico cazzo una settimana, perché l'altra volta una settimana me l'hanno dato. Cavolo, non posso aspettare tempo. Hai detto un mese, da. Un mese è anche accettabile. L'altra volta in una ghida mi l'hanno dato, perché non avevano da fare indagini di nessun tipo, vedevano che era tutto a posto e via, cosa c'è anche lì, poi non è manchi caduto lo mio. Sì, perché non fanno accertamenti, capito, non è possibile. Ma cosa accertamenti? Gli accertamenti li fanno a chi chiede il rilascio, io sto chiedendo il rinnovo, vedono che ce l'ho già e faranno indagini a vedere se c'ho qualcosa nel frattempo e boh. Però noi vivono in Avantadino. Fa 3 mesi, ma può fare sì. Ehi, ti faccio leggere la ricevuta. C'ho la ricevuta, mi ha lasciato la ricevuta come che gli ho consegnato tutto. Forse che vengono a controllare qui, capito? E quindi è meglio che c'è la ricevuta che è tutto in questura. Eh beh, certo. E c'è scritto nella ricevuta 90 giorni hanno di tempo, non lo sai. E di cazzo, Sivoni ti va in agità 3 mesi. Sì, è male che lo dato nei prima, dai. Sì, vedo un po'. Però se riesco a farmi da un cacuno è meglio. Allora manco, mi telefonai, già mi vai a pigliarti lui, è pronto. E quella persona là, mio cugino, ti può fare nulla. Al limite andiamo a vedere, si vede in chi suffizio. Vediamo 4 parole alla legge. Il cugino ci ha parlato con lui. Come? Con il cugino ci ha parlato. Eia! Ha detto che non può fare nulla, Edo. Le passegane già mbato tutto, me. Perché stanno sempre cambiando le leggi, sto cambiando tutto. È un casino. No, le leggi, il personale avranno cambiato, me. Non c'è più magari la persona che conosceva lui. È una burizzotta assa. Là se chi bisogna entrare all'ufficio non la giuvicchia, che non bisogna entrare nell'ufficio, no, nello sportello di Vadinecchia. Che c'è quella bionda, quella alta? Una tipa alta e grossa, continentale, assistente capo, Sì, l'assistente capo all'ufficio portuale, mi dice Mariangela. Ma la conosci tu? Allora ragazzo, mi lo pure di prima, ti la conosci, continentale, Iccia. Eia, già è lì, è alta e grossa. Eia, quella lì è. L'ufficio portavarmi. Ehi, chi sa dallo sportello? Da chi mi ha pigliato tutti i documenti. Quando ci vediamo? Fra 90 giorni. Così ti ha detto. Ehi, bastarda. Non è un po' comune. Perché non si vede Luca? Break, se... Cosa? Un attimo, break, cosa fa? Stavi rosicchiando. No, ma te fa un amico, no, avanti già. E buonasera a tutti, ero io che ho fischiato, so se non ci fosse nessuno, va. Buonasera a tutti, ciao Franco, ciao Luca, Natalino, non so se ci sia altra gente, poi vi saluto tutti cordialmente, acceso in questo momento, non so se ci siano altri. Ciao Gianni, buonasera, ben entrato e ben ascoltato. Ciao Gianni, però quando entri così io ti temo, a temi. No, io ho sentito silenzio, ho fatto un fischio, ho detto invece ben natalino, non pensavo non ci fosse nessuno. Ah, siamo una bella greffa, là. Prima non c'era nessuno. Mica come è questo Gianni Natali? Davvero? E allora? Un mondo che ci ha mandato spacciatore. Produce. È un grido. Oh lui, mi hanno detto che si chiama Gianni il Caldo, è vero sarà? Sì, c'è sempre una mutanda calda, ciao. Ho le vampate di calore. Quella è la vecchiaia, mi già. No, quella non è la vecchiaia, no. È la gara. Ah, così è. Io. A te lo compri casa questo Gianni o fra? La vecchiaia è carrogna. Ciao, si va in gara, vedi, dai della grucca, resistenza bancari. A te io va lì, ma non c'ho voglia. Non lo sai, pure tu lo sai queste cose. E tu me l'hai detto! Giusto che te l'avevo detto io, vado alla crucca, vado. C'è l'asinello lì. Prova a attenuarla Gianni Natali. Devo mettere l'altro, perché io ti avevo attenuato con l'altro. Sì, vabbè, allora futti. Lo facciamo un altro momento, dai. Va bene, mi ascolti. Certo. Carragata. Forte e chiaro. Cosa hai messo l'antenna? K. E l'altro dove? La smartellata, ma è tutta messa male. Come messa male? C'è tutta ben aveva già, quando me l'ho tolta la butta ben aveva l'antenna. Ce l'ho qua in terrazzo. Che ne dire allora? Non fa niente. No, riesce bene. Quanto l'hai alzata fra? Allora, era praticamente 10 metri, ho fatto 3 metri di tubo e 10 metri la penna, 7 metri, 7, 3, 10. Vabbè. Sì, la penna, ma dico di tubo l'hai messo 3 metri. Meglio, va bene, tanto non deve essere ammortinato. Cosa la borgo a fare già, nato la sono io pure, io ancora più in alto, è già alta, è anche troppo alta, secondo me. Stazionari? Nulla, vero. Quella lì non è da niente, quella c'è da stazionare perché ha pubblico. Non è da niente, deve stazionare QRM, è difficile che lo dia. Allora, questa qua io sto modulando, stazionare neanche si solleva, figurati un po'. Nulla, nulla, nulla. E lei, come si dice, vulcanizzata bene, rinforzata. Già, tranquillo che ho fatto un bel lavoro, non ti preoccupare. Ma non c'è bisogno di, se è piazzata bene, non c'è bisogno di rinforzarla, perché la mia non ha nessun rinforzo, è appigliata tanti righi di batturati che tu manco di rimagineggi, di vento, di qua. C'è un amico che ce l'ha uguale e ha pigliato i batturati di ogni addipo, addirittura il vento l'ha pigliato il dubu e però l'antenna non sei facciata. Ma sei facciata che avete sbagliato la misura a voi mettendola, la misura non era quella la qualità. Perché bisognava leggere bene le istruzioni. Io ho preso la misura, me l'ho segnata tutta prima di farlo. Cazzo, ed è sempre lì. Adesso se tu la vedi mi si vede da via sorso la mia antenna. Adante, ascia. Ma tu l'hai fatto perché sapevi già che avevamo fatto lo sbaglio con la mia, ma se non lo sapevi avresti piazzato anche tu, perché quando io te l'ho detto ha detto che no, l'ha giù piazzato, devi sciantere, l'ha giù fatto, mi sciaganti. Allora io ti ho lasciato fare. Ma io non lo sapevo che voleva con le misure proprio, me l'hanno detto dopo a me. Che bisognava, infatti ho letto le cose, ci ho pigliato le misure, mi era giusignata, grubenarello, indelebile, i tubi, no? E l'ho fatto tutti a quella misura. E di lusso, la mia antenna, mi già lo sa Franco pure come l'ho fatta io. E anche io l'ho fatta con le misure giuste, è per forza, se non si fascia, è normale, no? Tu sei in una zona coperta, come fa a rompersi se il vento non è tira? Io sono a roccia a mare, per forza che il vento è molto più forte, il maestrale è forte qua, ma forte però. L'altro non gli ha fatto nulla, hai visto che non gli ha fatto nulla, eppure il vento c'era lo stesso e non gli ha fatto nulla, perché il materiale è diverso. Anche la mia è libera, non è più come la prima, non la vai a 16 metri antenna, ce n'ho di più puro. se ci sono queste ce da Gosu, da Via Sorso, è sopra il Torrino mi la mia antenna, che c'è sul tetto. Cazzo. E in più c'è anche l'antenna della TV sotto, quella nuova che ho messo. E infatti tu se passi la vedi dal ponte, la vedi da Via Sorso. Avanti. E comunque già antenna, quell'antenna mia era tutta piena d'acqua, allora guardi fa bene, più dove va, vira Eva dentro. Dimmi quando non avevamo guaratura mia, come in tira, fra. Finza Rubiele mi sei fasciato, vedi ne farà Rubiele. Per carità. Mi c'è l'acqua passata tutte le parti, mi va di sui tibiati, lui. E a me mi doveva stazionare più di due, mi dava. Quando pioveva, si bianava, era un di vera la carica a me. E me la mandava in corto. Cazzo, io mi avvisava che avevo sempre un rosso, mentre attaccato a chi ti mio. Ma se vuoi fare già tan bene, non dovrebbe entrare l'acqua. Però ci sono gli scarichi anche, c'è un buco dove scarica l'acqua. E se tappisce è normale che da voi ti rimane dentro. La mia era vulcanizzata benissimo, non bene no, benissimo. Avremmo dovuto tagliare l'urdaglierino a tirarne il rugoso. Eppure si pianava d'Eva. Ma pareva che l'acqua entrava dentro la carica, capito? Ecco perché andava a caricarsi le stazionarie. Vulcanizzati i tubi dell'acqua. Cazzo, e a Franco l'ha fatto la matta e si goda, tutta piena d'Eva. Quelle antenne così non servono a un cazzo. Cos'è della brase? E poi mi, non è la prima che sta nella padua l'antenna, no? Non è successo solo a me, è successo ad altra gente pure, che me l'ha detto, che ci ribianava e te l'ha dovuta rampare. Anche il fatto che la Game Master si tronca è successo a me di gente, non è successo solo a me, è successo anche a Porto Torres a Sandrottire, è successo ad altra gente che c'è su internet e che ho letto quello che hanno scritto che praticamente è un'antenna che non serve a nulla perché si tronca, e l'hanno aggiustata due volte dice troncata, non l'hanno più messa, cioè molta gente o che non rispetta le misure oppure è proprio il materiale che si vetrifica e succede così. Ma a me me l'aveva detto Marco Scorpio, non è prendere perché quel materiale lì si vetrifica, capito? Si vetrifica e poi si spacca. E come mai ce l'ha tanti anni Gianfranco e non è successo mai nulla l'antenna? Avanza! Si è pigiato un tubo, il vento gli ha piegato il tubo, però l'antenna non gli ha fatto nulla. Abbaida un po', Gumi, tu. Non rispettano le misure se si tronca, ecco cos'è. Se tu guardi le recensioni che ci sono su internet e ti rendi conto di quello che scrivo, non due o tre persone hanno scritto, sì, quando l'ho guardato io, che era un'antenna che aveva un materiale, che l'antenna poteva anche andare bene, ma il materiale che non serve. Da voi se mi si tronca piglio un paio di verghe di PVC e me la rifaccio nuova. E non si tronca più se la faccio di PVC. Quello è poco ma è sicuro. Natale, dai, riprendo fra un po', sto facendo alcune cosette qua. Ok, fra, dai. Ma sai, devo raccontarla, chissà, se si tronca, che poi non si tronca, perché se si tronca vuol dire che non hai ripizzato i misuri. La mia, lo sai, la sbattulata che ha preso qua dal vento. Cazzo, in orizzontale la giù c'è l'antenna, lo sull'altro. Però volevo, praticamente quasi che toccava con la punta, toccava in terra. Cioè, pigiare a gruppi allucinanti, cazzo, cioè, con i tiranti, con tutto quanto. I tiranti hanno funzionato, l'antenna si è troncata. Vedi. Perché non abbiamo rispettato le misure, perché non lo sapevamo che è successo quello lì. Però se tu rispetti le misure, l'antenna regge, a vederla si regge. Cazzo. Dico tu, dico. stessa, brutta. Sì, Natali, ma poi la seconda volta, quando l'abbiamo aggiustata, le misure le abbiamo fatte come erano nel foglio delle istruzioni, eppure si è truccata una testa. Boh, aspetta, ma... Chi è là? Ecco fatto, il cagnaccio non c'è più. Cosa volevo uscire? L'ho fatto scendere giù perché c'è Giorgio che lo porta a lui, quel medico, quello il mio vicino, là. Adesso va a pigliare a Concetta che la signora Elena lì e lo portano. La giubbotta la Betturina, la giubbotta la Padruguinzaglio, da Vaccone e via. Si rubuccia nei sugani. Oggi farà du burueddu perché stavo facendo la visita dal chirurgo, stavo facendo scesa a Gaia, l'amica di Concetta, un'altra chirurga, e c'ho l'appuntamento per fare l'attacco già tutto canto. Ma la visita dove è bravissima quella chirurga, Cosa ti ha detto? È complicato a farmi l'intervento perché c'ho un aneurisma io sotto i reni, no? Se quello lì non diventa più grande non possono intervenire perché mi devono mettere due protesi e quindi non mi possono operare la gamba per quello, perché prima devono risolvere l'aneurisma e mi fanno tutto assieme, capito? Infatti questo attacco, un angio attacco devo fare per quel motivo lì, però cazzo, non si è mosso da come era, lo devi tenere sotto controllo praticamente. Insomma, sempre mezzo ai rotti, via. E vabbè, adesso farò l'attacco e vediamo cosa ti dico. E domani devo farmi l'esame del sangue e della creatinina, perché vogliono quello. Deve essere per vedere se i rini stanno funzionando bene. E poi c'ho l'appuntamento che me l'ha fissato questa chirurga per l'angiottac. Vediamo un po'. E dove lo fare la messa? In qualsiasi laboratorio lo faccio. Vado al latte dolce, me lo faccio, così ce l'ho pronto. Poi lo do a Gaia, il referto, che lo fa vedere a quella, a quell'altra dottoressa che mi ha visitato. Tanto sono colleghe, sono lì tutte e due. Ho capito. Speriamo che si possa fare. Ah, farsi già si può fare. Devono guardare se possono intervenire su questo aneurisma. Perché se no, se loro mi fanno quello della gamba, poi non possono entrare per l'aneurisma che mi devono mettere due protesi, capito là? E quello è il discorso. Lo so, purtroppo è così, mi ha detto che devo camminare, anche se mi fa male, lei deve camminare, deve guardare adesso, siccome ti avvaghi su dolori, prima andavo dai noghi a un bosteggio di la macchina, no? E mi faceva male, adesso stranamente non mi sta facendo male, buh. E mi ha detto, lei guardi fin dove arriva, per vedere dove, quando è che gli fa male. Vabbè, allora cammina, perché stare fermo non è il massimo, stare fermo di blues. Già lo so, mi ha detto che è il sangue che fa uscire l'acido lattico, tipo rampo forte, un dolore allucinante mi viene, e chi sue? Ah, ma però in ghisidì, non mi venendi, domenica sono andato da coso a prendere del materiale che mi serviva per qui, da Abricomen, e non mi ha fatto male. Boh. oggi sono tornato, ci ho messo la macchina nel posto, sono tornato verso casa e non mi faceva male lo stesso quando sono tornato dall'ospedale. Quasi a luna ne sono uscito, dalle 10 che c'ero lì. E magari dalla paura di operarti ti è passato lì. No, che paura. L'operarmi ha giù paura. Mi l'hanno già fatta l'angioplastica a me. Auguri, era più grave la situazione. Che paura. Però boh, si è tappata accanto la vena. Però lì mi ha fatto l'ecodopre stamattina anche quando mi ha visitato. E là dici può? Ma devi ne fare da che, ma vedi usando come ti andendimi. Chissà da che così devo fare. Per vedere tutto bello chiaro. Perché prima di intervenire devono essere sicuri adesso. Vabbè, ci credo. Bravissima questa dottoressa, guarda. È collega di Gaia, l'amica di Concetta. E farà da Burueda, mi. È sceso anche Giorgio, è sceso. Cazzo, manca il presidente, manca il presidente della Repubblica. Vabbè, tutti di tutto arrivato. E anche perché loro guardano la situazione, capito? Guardano tutti insieme, poi fanno, si riuniscono e parlano di quello che si può fare. E infatti, poi non lo so se mi opera lei oppure mi opera Gaia. Gaia è il reparto cardiologia. No, chirurgia, sono chirurghe, tutte e due. Alla secca bianca sono. Vabbè, chissà che vada bene, dai. Adesso vediamo, domani comincia a pucciare Lugani e così manco vengo un di arrivo che non mi basinari. Ma ha detto in pianura deve andare, non in salita, se no gli viene subito il dolore, ma tu già lo so, Gugliez, come ti assi nirazzato. Eppure sono salito e non mi ha fatto male, perché l'ho posteggiata giù la macchina e ho fatto la salita per arrivare alla Secca Bianca. Beh, vai due comprendimi, o sei tappata dai sugazzi della vena, perché sono tre arterie sono. Ah, arterie proprio. E allora, il dolore ti viene per quello, perché non arriva ossigeno, col sangue arriva anche l'ossigeno, no? C'è poco ossigeno e quindi diveni lo grampo. Capito. Parlare serve poco, bisogna che te lo fai fare e che si attacchi e vediamo un po' cosa ci dico. Ha detto che 5 minuti si attacchi, che la pagina subito è un angio attacchi per vedere come sta passando il sangue. Mi. Io l'attarino non lo sopporto, io stavo per dire di aprire che volevo uscire fuori. Cazzo, ero zioli con questi rumori, bimbo, bimba, bimba, bimba. Ah. No, quella è la risonanza, già. Ah, è vero, quella è la risonanza magnifica. Cioè, ma quello lì mi ha fatto uscire di testa, mi pensava, non si muova di millimetro, stia fermo così, cazzo, mezz'ora fermo così, Già me l'hanno fatta pure a me, cazzo, questi rumori, mamma mia, cazzo. La risonanza è fastidiosa, E con tutto che mi ha rimuso di gufo. Pure a me, però cazzo. No, l'angio attacchi mi devono fare. Mi metteranno dentro solo l'ambe. Dice che 5 minuti, dice che è veloce questa roba. Quanto ha detto lì, che vuoi che ti dica? È stato così. Oh, sto uscendo? Oh, sto uscendo, sì o no? Uscendo. Oh, eia, già stai uscendo. Oh, ok, da il Typhoon, qualche giorno spento, sta andando, da questa qua, quello che non stavo facendo un'altra volta già. Quella che avevamo uscito? Via, perché dovevo scaldare, non posso stare troppo a capo spento. E tanto l'attacco. Questo cosa faccio? Tra un po' devo uscire, lo lascio acceso e metto un volume basso. Così lui ha tensione, capito? Pure a zero non vuoi dare il volume. Ma infatti, lascio acceso così lui, tranquillo e sereno. Sì, no, c'è stato un po' tempo fermo, non esce. E se c'è qualche condensatore a farsi benedire, I condensatori in perdita sono... si devono ricaricare, anzi è fatto male a parlare, dovevi lasciarlo un po' acceso prima di parlare. E vabbè, cosa di pazzi, va. La radio va all'altro e cioè, è diversa. È forte, vabbè, allora. Io dico uguale al 3009, io quel 3009 non lo venderei mai, già, mai poi mai. Io lavo tutto. Ah, è troppo bello, va. Vabbè, è uscito nuovo, non mi ha dato quei coperchi, tutte queste cose. Non mi ricordo che cazzo ho messo la scatola. Che mi hai dato. Lo sai che ce ne sono parecchi di quei 3009, eppure lo sai che non è il 3009 vecchio, quello che ho comprato io, è un Cobra 148 praticamente, la piastra, e sono tutte messe storte come la mia, un bel di casi ce ne sono stati ed erano tutte storte come la mia. Ed è la scheda di un Cobra 148, mani druffaddu, praticamente. E sono tutti rotti, mi. Via internet ne ha trovato il vicino o me, tutti lamentandosi di questa storia qua. Ci sono tutti componenti diversi, non sono... il modulatore è diverso dal vecchio 3009. Praticamente è un Cobra 148, è la ditta francese che li produce, non dà il manual service, capito? E non riesce a contarlo baghissu, ma il vicino si è intesardito. Sta sistemato? No, esce sempre chi tu bruciu. Esci. Si è intestardito e deve riuscire a trovare lo schema. Il coso, cioè lo schema l'ha trovato. Il manual service di quell'apparecchio gli serve. Ed è un Cobra 148 quello lì. La scheda, no. Non è il vecchio 3009, capito? E chi su è diverso, tutti i componenti sono diversi dal 3009, perché quello ne ha aggiustato chissà quanti di 3009. Se era stato un 3009 l'avrebbe già messo a posto. Lo so. No, il mio dovrebbe essere un 3009, se in effetti. Beh, perché quello di Gianni, cioè va Gianni. Comunque ho fatto il tuo, capito? Mica me lo sono tenuto. Tu l'hai dato quello che c'avevo e invece c'è tutto il mio. No, assolutamente no, il mio è nuovo. Fa il caso che quello lì magari, lo so, è nuovo, magari che mi ricrimava. Ah, non male, anche se mi tengo il mio, sono sicuro che si rompe, se la abbia le luci. No, ho fatto il tuo. Oh Luca, guarda se la scheda è dritta bene dentro il coso, quando lo apri, o se è storta. Se è storta non è un 3009, è un Cobra 148. Capito? E i componenti dentro sono tutti diversi dal 3009. Perché il 3009 c'aveva il modulatore a pettine, chi c'aveva un modulatore minoreddu. Esattamente, ma quando c'ho più tempo, al suo tempo non ne ho per aprirlo. Quando c'ho più tempo, lo apro, un attimo lo smonto e ti mando le foto. Infatti, tanto il vicino lo vede, subito, immediatamente. Ma pulisci tu subito che noi la scheda del 3009. Cazzo, poi è storta, l'hanno messa nello chassis. Non è dritta, non è negli incassi dove dovrebbe essere. E va riduccia. Sì, avete parlato in due, vai già. Ho detto che quello che ti ho dato io era nuovissimo, l'avevo usato poche volte. Dopo gli altri aggiunto con tutta la confezione, tutto gatto, non è che ti manca valuta, non c'era tutto, c'era le istruzioni, tutto gatto. No, le istruzioni non ce n'erano già, assolutamente, non c'era la schema. No, era vuoto, c'era i qui così che c'erano dentro, la staffa, il microfono, no, io non ho messo tutto, niente, nulla, giuro. Se ti sto dicendo una parola io mi fulmina adesso. No, no, mi piace credo. Ma era nuovo quello mio, non era. Andava anche bene, non è. Non aveva nessun difetto, nulla. Era nuovo nuovo. Cioè c'avevo da poco, capito? Non era. Era l'ultimo apparecchio che avevo comprato, però io avevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, cosa me ne posso? Ma l'amore non c'è dentro. Cosa? Non c'era niente, documenti, nulla, non c'era nulla dentro. Vuol dire che non me l'hanno messo, io ho trovato tutto com'era. Se non ci sono è perché non me l'hanno dato. Oppure magari ce l'ho messo io da parte le istruzioni, dove tengo tutti quanti le istruzioni degli apparecchi. Tu non ci crederai, ma è molto importante la scatola. Guarda, te l'hai tenuto qui. Secondo te? Sì. Ma stavolta mi serviva la scatola, ma che sta calcalino? Quella nuova, non è che fosse vecchia. Definitiva sì. E il mio l'ho comprato nuovo, è pure gatto. Ma ne butti tu. Ma io te l'ho detto, se non vuoi il vietto di no. Alla faccia di Natalino io ne ho due funzionanti. Vai a farti fottere tu. Può cuomane. È un bastardo questo Marcolino Condo. Bellini, uno con il display azzurro, l'altro il display rosso, tutti, molti canali, molti tutto. Però il mio non è il vero 3009, perché abbiamo guardato e la scheda è diversa. Per essere il 3009 originale deve avere, cazzo, quello a pettine, il modulatore, invece c'è minorito, tutti i pezzi diversi, vi so, la scheda va riduccia nei buciu, e lo sai quanti ce n'è rotti di quegli apparecchi, non hai idea tu, perché li ha trovati su internet la gente che si lamentava. Deve essere tutta quella serie, l'hanno fatta così, tutti con la scheda storta, tutti rotti sono. Sicuramente se non ci stava quella scheda è buttata riduccia. Ah, cosa mi so, qua c'è un incazzo per quell'apparecchio, mi piaceva così tanto e dopo è andato così, e fa sempre quell'innesco, non venuto arrivare in FM, va bene in AM, va di chi si innesco, chissà cosa Marazzucci l'ha pigliato. Se trovavamo il manual service l'avrebbe messo a posto il vicino, no? Però è troppo diverso dal 3009. Guarda, non voglio dire, cioè non sto dicendo niente, ma secondo me sono dai a fabbrica il tuo sistema. Ma cosa sistema? Che la ditta francese che li produce non dà il manual service, ti sto dicendo. C'è anche la ditta che li produce, quello lì c'ha la scheda del Cobra 148, non è un 3009. Dimmi che è della CRT France. Ti sto dicendo che è un Cobra 148, quella scheda che c'era nel mio, perché abbiamo appurato tutto. Ho capito, sì, guarda, la CRT France faceva quegli apparati fino a 10 anni fa, e anche la modifica era diversa, un po' di roba diversa c'era, peccato, vabbè. E comunque se vi piace l'estetica valutate quello moderno, quello del 2023. Dentro è un 6009, una 5555 Rizzone, Natalino già lo sa, ma fuori è, anzi funziona meglio dell'altro se vogliamo. Già c'ho la Rizzone 5555 io, basta questo, basta. Non ne voglio più apparecchi, tanto per la gente che sta entrando. Ah, mi ha risposto la Finlandia l'altro giorno. Di brutto. Eia, me l'avevi detto, mi pare. Eia, comunque, vabbè, se l'aspetto è importante, quello in realtà funziona meglio l'FM, molto più stabile in frequenza per i DX anche a freddo, quindi so che 200 euro pieni, secondo me di più, perché se compri il cavetto costa roba di 18-19 euro solo il cavetto per programmare i canali speciali, capito, umma. Non ne ho bisogno di canali speciali, poi per i DX uso questo qui, non ne uso di quello là, c'ha pochi watt. E tanto vale, sì. Come? Sentito lei a caso, non ho più sentito né visto. Sarà impegnato. Ha detto quando c'è tempo già entra. Ci ho pensato anche l'altra mattina quando sono passato vicino a casa sua, e tocca se Carlo non è ben entrato. Bisogna sentirlo. Magari è più impegnato perché è passato capo servizio lì, dove lavora, e avrà più incombenze, penso. Adesso vuol dire che andrò anche a farmi un paio di tiri, così cammino a Panguella, mi tocca a camminacche. Ci arrivi con la macchina, ce l'ha lì, e la guida, devi fare il tiro da camminare, non c'è nulla da camminare. No, già c'è da camminare, devo camminare per forza, che me l'ha ordinato la chirurga. Perché adesso non mi sta facendo male, maledizione, e devo camminare per vedere fin dove arrivo a farmi male, mi ha detto. Quando mi fa male ha detto a insistere, a camminare. Perché quando fai il movimento attiva la circolazione, ecco perché. E deve essere per quello, che ne so io. Ma tu lei, adesso quando io vado a prendermi la macchina mi dovrebbe far male quando arrivo al mercato, invece no, sono andato pure da Bricoman e non mi ha fatto male, mi ho fatto tutto Bricoman da giù fino a su e viceversa, perché dovevo comprare roba che mi serviva per qua. E da poi mi ha giù dimenticato due cose, due umiliava, mi tocca durare andare. Vabbè, lo faremo, tanto mi devo fare un diploma, mi devo fare, cazzo, e mi serve roba. Me lo devo fare accorciato, gli faccio le cariche e ce lo piazzo sopra. Ma io già, mi stavo sistemando la roba della spesa. Ah, io me l'ho fatta stamattina, ho finito normalmente di fare la spesa stamattina. Ne ho lasciato anche stamattina 75 euro. E cosa vuoi che sia per uno che fuma? Cazzo. Oh yeah. Ma vediamo un po' come va la situazione adesso. Domani vado e mi faccio l'esame del sangue. A chi senza chi sono, mi vado nella DAC. Natali, ti ho mandato le istruzioni di quell'antenna HF. Sì, grazie. Devo farmi un dipolo, c'ho già il progetto qua che me l'ho scaricato, che invece di 10 metri, cioè di 20 metri esce 5 metri per braccio, 10 metri esce. È una figata, gli devo fare il balloon però, che è diverso da quello della multibanda, perché lo devo fare col capo coassiale. Mi devo ordinare due toroidi, uno per me e uno per Franco, ne faccio due di quei dipoli, diventi una bomba. Eia, l'ho trovato adesso, l'avevo mandato in quel posto originale su Roger K, l'avevo acquisito allo scanner, mi pare, con le mie istruzioni,